Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. In collegamento con Emanuela Piovano di Kitchen Film per parlare del film La Bella e le Bestie e di Kauter Ben Hania in uscita in sala il 26 luglio. Emanuela, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a voi. Non so se ho pronunciato bene il nome della regista e comunque intanto raccontiamo brevemente la storia. Certo, sì, credo che tu l'abbia pronunciato bene, forse ha delle aspirate che ancora ci sfuggono non conoscendo l'arabo, comunque Kauter Ben Hania. L'attrice invece è Mariam Al-Sersani. E molto brava, tra l'altro anche lei regista, che sarà presente ad alcune anteprime, è stata già presente anche a Roma Africa Film Festival lo scorso sabato e poi adesso sarà a Milano all'Anteo giovedì e domenica e sabato sera al Palestrina. E qui racconta una storia vera, tratto da un romanzo di una donna di Tunisi che ha subito una violenza insieme al suo fidanzato, da parte peraltro delle forze dell'ordine, quindi raccontiamo un paese in cui la democrazia è ancora emergente, non è ancora consolidata, e poi l'odissea di questa donna col suo fidanzato, il quale ha anche precedenti perché è un rivoluzionario democratico, un cittadino che ha partecipato ad alcune manifestazioni della primavera araba e che insieme si vivono un'odissea per riuscire a far rispettare e avere un certificato, insomma, di questo stupro per poter far valere i propri diritti. Il film si svolge tutto in una notte, costruito magistralmente dalla regista con 9 piani sequenza. Quindi è molto raffinato anche come scrittura di film, però è anche molto appassionato, è molto un thriller, un vero thriller, anche se non ha nessun cedimento a thriller commerciali, ad effettacci per esempio, nonostante racconti una storia estremamente drammatica, non c'è mai assolutamente un'immagine che non sia simbolica o estremamente suggestiva, che ci riporta veramente a un discorso molto ampio della lotta per i diritti e per la libertà. Sì. Tutto tra commissariati di polizia e ospedali, claustrofobico, però ci dice anche attraverso le figure che compaiono diverse cose sulla società oggi del paese di cui stiamo parlando. Sì, appunto, tra l'altro è molto interessante ascoltare la testimonianza e il racconto dell'attrice protagonista, appunto Mariam Al-Sersani, che tra l'altro si è formata, pensate, alla scuola Luchino Visconti di Milano, figlia di diplomatici, e peraltro a settembre ancora in dubbio sul permesso di soggiorno, nonostante siano circa 15 anni che vive in Italia e abbia fatto tutti i suoi studi in Italia, parli correntemente l'italiano, quindi è una delle storie che tra l'altro coinvolgono profondamente anche il nostro paese, no? Cioè, evidentemente la democrazia non è mai un dato di fatto, è sempre un orizzonte per il quale bisogna lottare perché sia stabilito. In più la democrazia è così labile che, come sappiamo, ha degli orizzonti che si spostano anche sempre, no? Sì. E quindi lei però è molto molto interessante come racconta, come conosce bene la storia della Tunisia e come conosce bene tutta questa primavera che adesso ha avuto una sorta di marcia d'arresto e che comunque poi naturalmente il film è molto maturo, è molto intelligente, quindi racconta anche le istituzioni invece non corrotte e che invece sono quelle che salveranno alla fine la situazione, ecco, quindi comunque c'è anche un racconto delle persone che anche all'interno delle istituzioni, in questo caso delle forze di polizia, trovano la forza e il coraggio di insomma imporre invece dei modelli di stato di diritto. Quindi il film racconta questo sia di questi due giovani e poi anche di questo anziano che li aiuta. E lei, se per caso di ascoltarla anche giovedì o sabato a Milano, è veramente molto preparata sulla storia della Tunisia e anche su questo libro di questa autrice che racconta la propria storia vissuta in prima persona. Infatti il titolo del libro è Colpevole di essere stata stuprata. Emanuela, come avete incontrato il film? Il film l'abbiamo visto a Cannes, che è sempre una fucina straordinaria di opere, come dire, non necessariamente stabilite, quindi opere prime, opere seconde, opere di cinematografie anche sconosciute, però è un film anche che si è imposto, perché comunque l'attrice ha vinto il premio arabo della miglior attrice e anche ha avuto un premio al Serpent Regard, che è la sezione ufficiale del Festival di Cannes, dove nonostante questo sia un'opera seconda, quindi avrebbe trovato la sua collocazione naturale nella semaine della critique, viene addirittura invece accolto nel Serpent Regard, che è veramente l'anticamera del concorso, no? Quindi dove si riconosce a questa regista quarantenne, il cui questo film è la sua terza opera, mi pare, e le si riconosce uno statuto d'autore a tutti gli effetti. Quindi Cannes è sempre una grande fucina. Naturalmente è un film difficile. La comunicazione di questo film è difficile perché può cadere sempre in mille trappole, cos'è un film sullo stupro, che palle, o senza diritti, cioè, quindi visto che oggi dobbiamo anche lottare non solo per la democrazia, ma anche per così, per coinvolgere i nostri cari, e dico i nostri cari, non dico il pubblico come fosse un fautore di biglietteria, no? Sì. Ma i nostri, cioè, coinvolgere i nostri cari ad ascoltare le cose che abbiamo sognato di notte, che ci coinvolgono tutti. Dobbiamo fare un grosso lavoro, no, per Sì, fare questo. sì. Quindi questo film è difficile da comunicare, però una volta che lo si è comunicato, che si è andato a vederlo, la risposta dei nostri cari è stata molto molto molto positiva, e devo dire che effettivamente è un film estremamente estremamente speciale, come anche proprio come costruito. Che uscita sarà? Farà un'uscita inaspettata a Mecati, tra l'altro appunto avevamo pensato che fossero uno dei nostri film, kitchen film, quindi sempre molto preziosi, molto rari, invece abbiamo avuto, devo dire, francamente, una risposta superiore alle nostre attese a questo momento come sale. Per esempio a Roma usciamo addirittura in tre sale, usciamo a Torino a Reposi, usciamo a Milano in due sale, usciamo in Sardegna, usciamo insomma in una quindicina di sale, che per noi è già un traguardo importante, significa che in Italia c'è una bellissima risposta, per il momento almeno da parte degli esercenti, dei nostri agenti all'Havana, no? Che hanno molto apprezzato il film. Il film era stato tra l'altro presentato una primissima anteprima al Cinema del Carbone a Mantova durante gli incontri della FICE. Proprio invitati dal presidente Domenico Di Noia, da Mario Mazzetti, proprio per un omaggio alla Kitsch, perché avevano visto questo film a Cannes e gli era molto piaciuto. Abbiamo fatto anche una piccola inchiesta in quell'occasione, se gli esercenti, perché Mantova è una manifestazione dedicata agli esercenti, non un po' Sì. tipo Palazzo Pitti per la moda, per il cinema italiano, che viene presentato la stagione del cinema italiano. E quindi abbiamo fatto una piccola inchiesta per chiedere se avessero preferito la versione doppiata o sottotitolata, e siamo rimasti anche molto colpiti che il gradimento del sottotitolato tra gli esercenti anche in aumento, cosa che invece una volta era proprio una cosa tra i cieli, qui sottotitolato, ah vabbè, niente, no, niente, no, tu non ci interessa. E quindi comunque abbiamo scelto di fare la doppia versione, anche perché il film si presta molto, perché come dico è costruito comunque come un thriller, con dei dialoghi serrati, con una sceneggiatura di ferro, quindi è molto bello anche il dialogo. Marco Casanova ha fatto un ottimo lavoro, l'abbiamo presentato alla stampa la scorsa settimana, che è stato molto apprezzato, quindi comunque è disponibile anche la doppia versione, in arabo e in italiano doppiato. Bene, tra l'altro ti dico, Emanuela, che al film dedicherò la copertina della puntata di Tracce di tutta scena cinema di questa settimana con una Ah. foto di scena. Bene, grazie mille, grazie mille. Ma infatti vedo proprio che c'è una bellissima risposta, insomma, per una volta con i nostri cari forse ci siederemo intorno al tavolo dei racconti

dal 17 luglio fino al 9 agosto. Sergio, ben trovato. Ciao a tutti, ciao a tutti. Raccontaci un po'. Per l'ennesimo anno al Forte Trentino abbiamo organizzato questa edizione di 100 Celle City Movies, che è una rassegna dei film che abbiamo ritenuto più interessanti della stagione passata, quindi 2017-2018. Sono film importanti di produzioni ufficiali, insomma è il cinema che piace al grande pubblico, mettiamola così, più in mezzo a una serie di titoli insomma, di grande richiamo. Ci sono anche dei titoli un po' più particolari, insomma, mi viene in mente, per esempio, abbiamo dato martedì scorso un film chiamato Florida o dei film insomma un po' più ricercati per fare in modo che il pubblico del nostro quartiere, della città di Roma, abbia modo di poter godere anche di film non, insomma, magari non, che non, sono, non hanno avuto un'importante distribuzione durante l'anno. Quindi cerchiamo come ogni anno di mantenere un equilibrio tra proiettati nelle grandi sale, come anche quelli che magari non ci sono arrivati. L'arena sarà all'esterno nel parco? Sarà all'esterno del parco un'arena grande e anche un'arena un po' con uno schermo un po' più piccolo, un po' meno sedi, all'interno del Forte Prenestino, nella piazza d'armi di destra. Quindi ci sono due film proiettati ogni sera. Ok, e da quello che vedo il martedì e il giovedì. Martedì e giovedì esattamente, le proiezioni iniziano intorno alle 22 e una cosa un po' particolare di quest'anno è che all'inizio di ogni film della programmazione verrà proiettato un cortometraggio tratto dal Nasra Palestine Short Film Festival, che è un festival di cortometraggi di cinema sulla Palestina e palestinese, quindi sono film realizzati da palestinesi e anche da autori non della Palestina, ma che riguardano, che hanno come tema la Palestina, e in particolare poi il 31, martedì 31 luglio, nella sala interna verrà proiettata un'intera selezione appunto di questi cortometraggi dal Nasra Festival. Il Ok. festival è un festival che è nato l'anno scorso dalla collaborazione di diverse associazioni. Ha girato diverse città d'Italia, si basa sulla cooperazione e la partecipazione volontaria di associazioni che vogliono promuovere il tema della Palestina e raccontarlo attraverso il cinema. E addirittura quest'anno è stato ospitato al Pavillon Palestine di Palestina del Festival di Cannes, e proprio in questi giorni stanno raccogliendo le adesioni per l'edizione per l'anno prossimo. Quindi insomma noi ci teniamo intanto a parlare, a far parlare di Palestina, visto anche quello che sta avvenendo in questi giorni, di cui noi qua in Italia ci dobbiamo basarci sui mezzi di comunicazione ufficiali, non sappiamo assolutamente nulla, e quindi è un modo per parlare della Palestina anche in una maniera non diciamo ortodossa, cioè riguardo ai fatti di cronaca, ai fatti di guerra, ma per vederlo anche un po' attraverso uno sguardo dall'interno. Anche attraverso l'arte e quello che il cinema può fare, insomma, con i suoi mezzi. Quanti sono i corti palestinesi in programmazione? Allora, in programmazione sono una decina, e poi consideriamo adesso le giornate che mancano da qui al 9 agosto, la fine della rassegna, più o meno, insomma, forse qualcosa di più. Il Nasra Festival in realtà ha proiettato, credo, una ventina, forse più, di cortometraggi, e poi ci sono questi che sono stati premiati. Quanto. Diciamo che sono cortometraggi di ficzione, sono cortometraggi documentari, sono animazioni, sono messe in scene, insomma, sul piano del linguaggio e delle possibilità del linguaggio cinematografico offrono un ampio spettro, diciamo, espressivo, ecco. Mentre i titoli dei film, dei lungometraggi di finzione, quanti sono? Allora, se sono partendo da giovedì 26 luglio, se volete ve li dico. Ok, diamo anche sì, una. Vabbè, allora, da giovedì 26 luglio vi dico prima quelle dell'arena interna e poi esterna, e poi di quella interna. Quindi abbiamo Black Panther, che insomma, è tratto dai fumetti americani, che tra l'altro storicamente è il primo fumetto che ha per protagonista un personaggio afroamericano. nell'area interna qualcosa nell'aria. Poi da martedì, seguendo poi martedì e giovedì, abbiamo la forma dell'acqua con appunto i corsi del Nasdaq Palestine Short Film Festival. Giovedì 2 agosto Amore e Malavita e Get Out, K. Martedì 7 agosto Tre Manifesti a Helsinki, Missouri, e segue nell'area interna Morto Stalin ce ne fa un altro. Giovedì 9 agosto Detroit di Catherine Bigelow e all'interno Kimmy Danger, che è l'ultimo film di Cinciatici. Bene, bene. Allora ricordiamo l'appuntamento con Centocelle City Movies, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino a Roma, cominciata il 17 luglio fino al 9 agosto. E Sergio, in chiusura ci dai anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, forteprenestino.net per quanto riguarda il sito, se no su Facebook ci trovate Forte Prenestino e come Cinema Forte. Vi ricordo anche che Forte Prenestino non è solo cinema, sono una serie di attività, laboratori, impegno sociale. Durante le serate troverete aperte comunque il pub, l'enoteca, la sala da tè e la trattoria. Ci saranno anche serate con musica e quant'altro. Trovate tutto quanto sui nostri insomma appunto su forteprenestino.net o sulla pagina Facebook. Sergio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille a te e a tutti quanti. Grazie tanto. In collegamento telefonico con Italo Spinelli per parlare della Finestra di Asiatica, il Festival del Cinema Asiatico a Roma, a Palazzo Merulana, dal 25 al 30 luglio. Italo, ben trovato. Grazie anche a te. In un bel posto che ha aperto da poco i battenti, diciamo una finestra di Asiatica, ce ne parli un po'? Sì, certo. Dunque, noi presenteremo quattro film e due documentari che sono un po' una selezione particolare sulle cose migliori che abbiamo presentato nell'ultimo biennio. Si tratta di appunto quattro film RAUF, che insomma gli aggettivi non li aggiungo dopo i film perché sono veramente tutti molto particolari e forti. Tra la Turchia c'è RAUF, da Israele Tikkun, Iran Obstruction Prison e Manto dal Pakistan. E i due documentari, My London Cross the River del Sud Corea, Path of the Soul della Cina. Rauf, ecco, rappresenta secondo me la qualità del cinema turco, a quali livelli è raggiunto, paragonabile a quello iraniano, di grande qualità. Ultimamente con più difficoltà, ma comunque sicuramente un cinema particolare che non ha appunto nulla da invidiare al cinema delle altre paesi confinanti. Sulla Kun è un film fortissimo, molto insolito, cioè sulla storia di un giovane ortodosso, di una famiglia ortodossa israeliana, perché si parla molto dell'ortodossia in altre religioni, meno di quella della religione ebraica, che è un film bianco e nero, appunto, come dicevo, molto forte. Vision Season è dell'Iran, che 2 anni fa appunto vinse la storia di al femminile, di una donna che cerca una sua dimensione, una sua identità in una sorta di oppressione da parte della famiglia e del marito, fino a Manto, che è la storia da un film pakistano su un grande personaggio che appunto è Manto, si chiamava, che scriveva sceneggiature, romanzi, fino agli anni 47-50, grandissimo scrittore pakistano che aveva molto sofferto della partition dell'India e del Pakistan, che i pakistani hanno fatto un film buono, di gran valore, e che spero che la comunità pakistana, che poi è presente anche nel nostro quartiere di Merulana, spero che abbia l'occasione di vederlo. I due documentari sono un documentario del Path of the Soul, che è stato richiesto decine e decine di volte di mostrarlo ancora, è il percorso che i pellegrini fanno fino all'Asta, attraversando tutto il Tibet dalla Cina fino ad arrivare all'Asta, ed è un percorso molto particolare, nel senso che si crostano a terra i sedili fino a raggiungere il monastero, ed è un viaggio di 9 mesi, quindi ci sono nascite, morti, è un documentario veramente straordinario che ci chiedono molto di mostrare ancora. Ma il London Cross the River è veramente unico, nel senso che è un amore fra due signori più che amabili di oltre 90 anni che vivono insieme, isolati, con una tenerezza e una commozione che accompagna la loro vita, veramente anche questo è un documentario unico. Sì. Questo è un po' due parole sui film che presenteremo. Asiatica, insieme ad altri festival e realtà del cinema, partecipa a questa arena estiva al Palazzo Merulana per i mesi di luglio e agosto. Ci parli anche un po' di questa scelta? Sì, diciamo che è una sorta, non so come chiamarla, di ricordata, un'idea di mettere insieme delle realtà, e molto e volentieri ci siamo un po' accodati a Santa Festival, che ha aperto con inediti film storici bellissimi. L'idea appunto è quella di portare anche una selezione dei nostri festival a un pubblico diverso e più, forse speriamo, interessato anche a delle visioni diverse. C'è poi una prestigiosa selezione della Internazionale, che oltre ad essere una grande bella rivista è anche promotrice di un festival a Ferrara, dove vengono presentati dei documentari molto interessanti, che anche loro faranno una selezione. E quindi diciamo che ci siamo uniti a queste tre realtà, cercando di dare una continuità attraverso queste selezioni e appunto, come l'hai chiamata giustamente te, aprire delle finestre nuove per avere visioni diverse. Sì, sì. Italo, in chiusura, qualche anticipazione sulla prossima edizione di Asiatica? Ecco, sì, la prossima si svolgerà dal 4 al 10 ottobre al Movo Sacher e al Wigil, che è adiacente, e riprenderemo Asia di Carta con la presentazione dei libri su e dall'Asia. Ci sono 7 film in competizione dal Kirghizistan, Kazakistan, dalla Cina, dalla Turchia e dall'Iran e dall'India, e sono film, credo che sia stata una selezione, come dire, molto, un anno di film belli, veramente belli. C'è forse una presenza maggiore del Centro Asia, che è poco frequentato, ma ha una cinematografia stimabilissima. Ci saranno gli autori ospiti, sono film dalla Turchia al Giappone. Okay. Le anticipazioni sarebbero tante, perché mi sembra che ci sono tante cose belle che accadranno lì al Movo Sacher. E a questo punto ti conviene lasciarci dei riferimenti internet per saperne di più? Sì, cioè dunque il nostro riferimento è www.asiaticafilmfestival.com, no, penso com, dove si può vedere un po' di anticipazioni. Noi continuiamo anche con queste presenze sporadiche, abbiamo fatto a giugno 3 giorni di cinema iraniano con 7 film e 3 registi iraniani, tra cui Rakhshambani Ahtemad, che è un po' la first lady del cinema iraniano. Sì. E quindi continuiamo con questa presenza che speriamo diventi più continuativa per una città come Roma, che appunto credo che abbia bisogno e meriti tutte le altre visioni del mondo. Certo. Bene, ricordiamo allora questa finestra di Asiatica, il Festival del Cinema Asiatico a Roma, Palazzo Merulana, dal 25 al 30 luglio. Un saluto e un ringraziamento ad Italo Spinelli. Italo, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, a prestissimo, Ciao. grazie mille. Ciao. In collegamento telefonico con Claudio dell'ex lavanderia per parlare dell'Arena Cinema al Santa Maria della Pietà a Roma. Claudio, ben trovato. Buongiorno, ben trovato te, ben trovato tutti. Buongiorno. Ci racconti di questa iniziativa per partire? Volentieri, volentieri. Allora cominciamo con le date, da domenica 22 a venerdì 27, con eccezione del giovedì. È Ok. una rassegna che si intitola Tutti i Santi Giorni, la famiglia secondo il cinema. Abbiamo scelto questo argomento perché lì, in particolare al Padiglione 31, ma anche in questo momento, come dire, sociale, delle altre cose, ci interessava un po' l'argomento famiglia, ovviamente non nel senso più conservatore del termine, ma nel senso delle relazioni, l'educazione dei figli, i conflitti generazionali, le separazioni e quant'altro. E quindi abbiamo scelto cinque titoli che secondo noi possono in qualche maniera farci riflettere su quello che viviamo poi quotidianamente un po' tutti, diciamo. Li elenchiamo? Certamente, domenica facciamo Capitan Fantastic, che è un film statunitense di Matt Bross. Lunedì, Tutti i Santi Giorni, un film di Verzi. Martedì 24 abbiamo Sole, Cuore, Amore, un altro film italiano di Vicari. Giovedì abbiamo, mercoledì, scusa perché giovedì siamo in riposo. Mercoledì 25, Una famiglia perfetta, sempre di un film italiano, sempre di Genovese. E chiudiamo venerdì con un bel film, scusate se su questo ci metto, bel film iraniano, Una separazione del regista Farhadi. Questo Benissimo. per dare anche un segnale del fatto che poi alla fine le relazioni all'interno dei contesti sociali sono tutte diverse, ma quelle fra le persone poi alla fine si assomigliano abbastanza. Claudio, ci sarà anche una presentazione o un momento di dibattito dopo la proiezione? Questo, come nostro costume, dipende esclusivamente dalla voglia e dal contributo degli spettatori, cioè non è un obbligo vincolante stile Nanni Moretti, se mi posso permettere, Ok. ma è assolutamente una situazione molto conviviale in un posto meraviglioso e anche abbastanza fresco, per la quale se poi dopo si vuole chiacchierare un po' del film si può assolutamente fare, ma diciamo che non è nei nostri must organizzativi. Certamente ci sarà una presentazione del luogo e di quello che noi rappresentiamo all'interno di questo luogo, perché è nostra abitudine in qualsiasi tipo di iniziativa. Ecco, proprio a questo proposito, e parliamo un attimo della situazione del Santa Maria della Pietà. Beh, certo, ci vorrebbe un simposio di una settimana per cominciare a capirci qualcosa. Cercherò di essere estremamente sintetico, contando sul tuo aiuto laddove sia un po' più complicato. Sì. Il Santa Maria della Pietà è l'ex manicomio di Roma. La legge Basaglia decide finalmente di dare un atto di civiltà e chiude i manicomi e stabilisce che quei luoghi devono essere assegnati a attività reddituali a scopo culturale, sociale e quant'altro, e che parte di questo denaro debba essere reinvestito per aiutare i progetti di salute mentale fuori dei manicomi. La legge che secondo me è l'unica legge davvero rivoluzionaria di questo paese, perché non si limita a istituire, a cassare o a riformare, ma abolisce finalmente questo terribile strumento della reclusione manicomiale. Ora, ovviamente, come tutte le leggi di quegli anni, non solo non è mai stata applicata, ma piano piano, la stanno smantellando pezzo per pezzo. Al Santa Maria della Pietà, in particolare, non è mai stata pianificata la centralità urbana che è prevista dal piano regolatore del 2007 di Roma, e quindi la ASL, tramite la compiacenza della Regione Lazio in questi ultimi 23 anni, sta piano piano prendendo possesso, a nostro dire in maniera illegittima, di quasi tutti i padiglioni, che stanno quindi ridiventando, per loro stessa natura, essendo gestiti dalla ASL, di nuovo sanitari. E quindi di fatto noi ci troviamo di fronte a una sanitarizzazione fuori di ogni regola legge, che stiamo cercando con tutti i nostri mezzi da 23 anni di combattere per restituire dignità a quel luogo, ma soprattutto per l'applicazione delle leggi. Sì. L'associazione Ex Lavanderia nasce con l'occupazione del padiglione 31, esattamente quello dove si svolgerà questa rassegna, dove da 15 anni si svolgono centinaia e centinaia di attività culturali di ogni tipo, e quindi si trova nella paradossale situazione di dover commettere un atto tecnicamente illegale per difendere la legge. Sì, perché sì. Il padiglione 31? Perché il padiglione 31, in tutti i protocolli, in tutti i decreti, in tutte le delibere, è quello destinato all'interno di Santa Maria della Pietà ad accogliere tutte le attività artistiche e culturali. Nel 2004 questa operazione di occupazione è stata fatta perché anche lì l'ASL stava smantellando tutto per farci non si sa bene cosa. È un'occupazione che serve e nasce per la soluzione tutta la vicenda Santa Maria della Pietà. Non è un'occupazione propria che rivendica il diritto ad utilizzare un luogo inutilizzato, ma che voleva servire a spingere sulla vertenza in generale. Sono 15 anni che occupiamo quel padiglione e svolgiamo tutte le attività artistiche e culturali che dovrebbero essere svolte a livello pubblico in maniera assolutamente volontaria e con la collaborazione di tutti coloro i quali hanno qualche cosa da dire o da fare di artistico, di culturale, di qualsiasi genere. Ed è un luogo straordinario di grandissimo incontro, perché come puoi immaginare ci sono realtà le più diverse che riescono faticosamente ma alla fine sempre a trovare una somma. Sì. Un laboratorio straordinario di quello che potrebbe essere la città ideale. La città ideale è una cosa che io dico, perché questo progetto nasce dalle 33 azioni di città ideale che nel 2004 occuparono il padiglione 31 e che dal 1997 si occupano di questa vicenda. Claudio, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Molto semplice, per fortuna, nonostante la mia età, adesso è diventato tutto molto semplice. Prima di tutto il sito della ex lavanderia, tutto attaccato così. Poi ci sono le pagine Facebook, sempre Ex Lavanderia, e lì potete trovare, oltre alle nostre attività settimanali, tutto quanto riguarda una vertenza tanto complicata quanto appassionante, perché è quella che noi consideriamo essere una delle tante situazioni emblematiche di come questo paese funziona e di come invece potrebbe funzionare. Quindi se a qualcuno interessano i riferimenti normativi, se a qualcuno interessa leggere il libro bianco che abbiamo faticosamente redatto e che parla di 20 anni della storia del Santa Maria, se qualcuno vuole approfondire questa vicenda o semplicemente sapere se siamo dei furbetti o diciamo il vero, lì può trovare tutti i riferimenti per sviluppare il proprio senso critico. Benissimo. Allora, ricordiamo la rassegna nell'arena del Santa Maria della Pietà dal 22 al 27 luglio. Claudio, io ti ringrazio, un abbraccio e in bocca al lupo. Io ringrazio te e che per stavolta crepi il cacciatore. Arrivederci. Ciao. Ciao. Siamo con la storica Vanessa Roghi, autrice e regista del documentario Franco Basaglia, La libertà è terapeutica, che sarà in onda sulla RAI all'interno di un contenitore dal titolo Quei complicati anni 70 il 27 luglio prossimo. Vanessa, ben trovata. Buongiorno e grazie mille. Descriviamo questo lavoro. Allora, quest'anno è l'anniversario della legge 180, che appunto è stata approvata nel maggio del 1978, e ci è sembrato doveroso, diciamo, dedicare a questa legge e a uno dei suoi più importanti ispiratori, cioè Franco Basaglia, una puntata di grande storia, quindi appunto il diciamo lo spunto è stato quello, dopodiché io ho cercato di raccontare non solo Basaglia, non solo la 180, ma cosa che si fa abbastanza raramente, anche quello che ne ha seguito, insomma, quindi magari i problemi, le critiche e l'eredità della 180, e quindi in realtà poi anche con le ultime esternazioni del ministro degli interni Salvini, insomma, mi sono resa conto che è un tema molto più attuale di quanto credessi. Quindi comunque sei partita da una ricostruzione storica? Beh no, è certo, come dire, il documentario sta dentro la grande storia ed è veramente una ricostruzione storica. Io parto proprio dalla nascita dei manicomi in Italia, okay. E soprattutto la cosa che mi interessava, vista la ricchezza veramente inedita di repertori televisivi dedicata a questo argomento, era anche far vedere quanto fosse stato importante il servizio pubblico televisivo. Cioè, io iniziando a lavorare su questa puntata mi sono resa conto che la RAI ha dedicato da subito una quantità di servizi al manicomio, alla sua struttura veramente, insomma, sbagliata, molto molto importante. Poi c'è stato il caso clamoroso del documentario di Sergio Zavoli, I giardini di Abele, che va in onda nel 1969 e fa 20 milioni di spettatori in due serate diverse, e che sposta radicalmente l'opinione pubblica, diciamo, rispetto alla questione della malattia mentale e della sua cosiddetta cura, visto che in quel momento, diciamo, la cura era rappresentata appunto sostanzialmente dalla reclusione. E quindi sì, è proprio una prospettiva storica nella quale vengono molto valorizzati i repertori della RAI. Il primo che ho trovato è un documentario, se non sbaglio, del 59 o del 60, insomma, che si chiama Un giorno in manicomio, ed è ancora una visione piuttosto tradizionale, però interessante, su chi sta dentro i manicomi in Italia. Vanessa, in questa ricerca di materiali d'archivio, quali sono gli aspetti che più ti hanno impressionato? Allora, intanto lo accennavo, è appunto la quantità. La quantità. Io sono 10 anni, no, forse di più, che faccio questo lavoro, e devo dire che raramente ho trovato argomenti così ricchi di documenti, visivi, insomma, di documenti filmati. Quindi la ricchezza. E poi mi ha molto colpito anche appunto lo sguardo, nel senso che non c'è uno sguardo contraddittorio sulla questione del manicomio. Insomma, la RAI a un certo punto abbraccia veramente la questione della chiusura e la porta radicalmente avanti fino in fondo, dedicando proprio negli anni 70 soprattutto moltissimi servizi proprio a spostare l'opinione pubblica su questa cosa. E quindi, insomma, queste sono le due cose che mi hanno colpito. Ovviamente una cosa che invece, al di là dei materiali che ho trovato, che mi hanno colpito è che è anche l'apporto invece dei fotografi, insomma, che anche da questo punto di vista è ricchissimo. Ci sono moltissime foto impressionanti, che ho potuto intervistare un fotografo, Mauro Vallinotto, che entrò nel 70 nel manicomio infantile di Torino e fotografò per la prima volta i bambini legati ai letti, perché disabili, abbandonati, insomma, una cosa veramente allucinante a rivederla oggi. A tuo modo di vedere, qual è il cuore della rivoluzione basagliana? La presa di responsabilità da parte delle strutture pubbliche della vita delle persone, nel senso che la follia si iscrive all'interno della società come una dinamica che sia appunto di patologia che di relazione sociale. Allora, riportare la responsabilità di tutti nei confronti delle persone malate, che sono malate, perché Basaglia non negherà mai, insomma, l'esistenza della malattia mentale, è proprio il cuore. Cioè la responsabilità delle istituzioni, degli amministratori locali, degli assessori, dei medici, degli infermieri, cioè proprio la migliore democrazia italiana, che si è messa lì e ha fatto e si è presa la responsabilità appunto di cambiare lo status del malato mentale, per cui guarisce tutti insieme. Stamattina sono uscita di casa, io abito in un piccolo paese vicino Roma, e c'era un ragazzo in mezzo alla strada che si fissava le mani, era da ieri che stava lì che si fissava le mani, e io dovevo prendere un treno e una signora mi si è avvicinata e mi ha detto: ah, ma non si spaventi, è innocuo. E io ho pensato che io non ero per niente spaventata, ero molto, come dire, no, dispiaciuta che non potevo fare niente, anche però così appunto mi domandavo perché lui stava lì in mezzo, no? Allora appunto è la presa di responsabilità di tutti poi quella che, alla quale richiama, diciamo, il lavoro di Basaglia. Sì. Ecco, proprio in relazione a questo episodio che mi racconti e anche alle polemiche che si sono succedute negli anni, e cosa resta di incompiuto o di disatteso di quella rivoluzione? Ma io so che appunto John Foote, che è stato lo storico che ha scritto forse il più bel libro sulla storia della riforma della psichiatria italiana, che si intitola La Repubblica dei Matti, adesso sta lavorando sul post Basaglia, quindi io aspetto di leggere quel libro per capire esattamente in termini storiografici che cosa è successo. Certo è che da quello che ho visto, da subito dopo l'approvazione della legge nel 78, si iniziano a fare una serie di inchieste di verifica, e da subito, dal 79, poi nell'80 Basaglia muore, però da subito quello che viene lamentato da parte dei medici, degli psichiatri, dei responsabili delle varie USL, così si chiamavano, no? Sì. Locali, la mancanza di finanziamenti. Cioè la 180 ha funzionato dove sono stati, era una legge quadro la 180, significa che ci sono pochi articoli che devono essere declinati dalle regioni all'interno del sistema sanitario regionale. Chiaramente questo fa la differenza, nel senso che se una regione ci investe in centri diurni, in assistenza 24 ore su 24, come è successo per esempio in Toscana, in Umbria, in Piemonte, ovviamente in Friuli Venezia Giulia, insomma chiaramente le cose cambiano. Se invece, come è successo per esempio nel Lazio, dove immediatamente dopo l'approvazione, cioè un anno dopo, sono partite inchieste della magistratura sulla mancata applicazione della legge, è chiaro che poi cioè l'inadempienza ovviamente non è della legge, ma di chi è chiamato, certo, ad applicarla, nel senso che la 180 è comunque una legge che dice: da ora in poi non ci saranno più ricoveri manicomiali, e appunto le strutture alternative sono delegate al territorio, ma se il territorio è ostile, è contrario, non, insomma, è ovvio che tutto questo è come la 194, no? Certo. Sono tutti obiettori di coscienza, e non è che uno può dire la 194 non funziona. Sì, sì, sì. Vanessa, il formato sarà di circa mezz'ora? Dai 35 ai 40 minuti, okay. Dobbiamo ancora equilibrare la puntata, ma insomma sì, questa è la durata. Allora, Rai 3, 27 luglio, l'orario? Prima serata, quindi insomma dalle 9 in poi. C'è uno spazio internet dove avere maggiori dettagli? Certo, c'è la pagina Facebook di La Grande Storia e anche il profilo Twitter, quindi insomma sì, e poi io da ora in poi inizierò a raccontare anche tutti i dettagli, quindi anche sul mio profilo Facebook, insomma. Vanessa, io ti ringrazio, ricordiamo la messa in onda del tuo documentario Franco Basaglia, La Libertà è Terapeutica, il 27 luglio su Rai 3. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a presto, grazie mille, buona giornata. In collegamento telefonico con Alberto Crespi, co-direttore della 24esima edizione delle Vie del Cinema, rassegna del film restaurato a Narni dal 25 al 29 luglio. Alberto, ben trovato. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Per chi non conoscesse, descriviamo queste Vie del Cinema. Descriviamole molto volentieri, partiamo proprio dalle vie. Il festival si chiama così ormai da 24 anni perché si svolge in una zona di Narni Scalo, che è la parte moderna e in pianura di Narni, che invece ha un centro storico arroccato, appollaiato su una collina umbra meravigliosa, in cui in questa zona di Narni Scalo le vie sono tutte, quasi tutte insomma, intitolate a grandi artisti del cinema italiano, da Fellini a Totò, anche a intitolazioni più recenti che abbiamo fatto proprio nell'ambito della manifestazione a Dino Risi, a Luigi Comencini e così via. In questa zona c'è anche un parco bellissimo, si chiama il Parco dei Pini, dove si svolgono le proiezioni all'aperto delle vie del cinema, appunto ormai da 24 anni, su uno schermo enorme, grande come quello della Piazza Grande di Locarno, per cui è il più grande d'Italia, considerato che Locarno è in Svizzera, vengono proiettati appunto film restaurati, perché film italiani restaurati, perché Narni fu una delle primissime città ad accogliere l'iniziativa e a fare propria l'iniziativa dell'allora ministro dei beni culturali Walter Veltroni, in cui si proponeva che ogni comune italiano adottasse un film da restaurare. Narni lo fece con Ladri di biciclette, e poi la nascita di questo festival, prima diretto dal grande regista Giuliano Montaldo e poi da Giuliano Montaldo insieme a me, è sempre stata la riproposta di classici del film italiano proiettati su grande schermo in copie restaurate, appunto, quindi in copie bellissime. Negli anni si è costruito un pubblico per cui c'è sempre grande affluenza di persone da Narni e dai paesi limitrofi, come suol dirsi. C'è anche un ristorante, c'è anche un secondo schermo di cui siamo molto, molto orgogliosi, perché da qualche anno ci siamo inventati uno schermo destinato ai bambini, dove facciamo film restaurati, perché si tratta di restauri digitali definalizzati al mercato dell'home video, e sostanzialmente facciamo i classici della Walt Disney, e i bambini li vedono probabilmente non per la prima volta, ma forse per la prima volta li vedono tutti assieme, li vedono su uno schermo vero, creando appunto quella forma di visione condivisa che dovrebbe essere l'essenza stessa del cinema, e che oggi, soprattutto per i più piccoli, confinati spesso dai genitori davanti alla TV o davanti a un tablet o addirittura davanti a un telefonino, si va perdendo. Quindi non solo soddisfiamo il pubblico degli adulti, il pubblico di ieri con il cinema di ieri, ma cerchiamo anche di creare il pubblico di domani, ecco. Sperando che questi bambini poi chiedano anche ai genitori di portarli al cinema, oppure fra qualche anno comincino ad andarci da soli. Alberto, l'edizione di quest'anno cosa offrirà? Quanti saranno i titoli? I titoli sono 5, quest'anno siamo andati un po' più verso la fine di luglio per evitare la sovrapposizione con i mondiali di calcio, che in altre occasioni ci ha un po' penalizzato. Non c'era l'Italia, ma abbiamo visto che gli ascolti televisivi sono stati comunque straordinari, per cui penso che abbiamo fatto bene. I titoli sono 5 e 4 di loro sono legati da un filo rosso, e il filo rosso è quanto mai attuale, credo, ovvero è una riflessione su quanto erano forti un tempo i valori della sinistra e della destra, intesa in senso politico ma anche in senso culturale, morale, esistenziale, in questo paese, e quanto oggi invece si siano entrambi un po' frantumati. Per cui proporremo 4 titoli che in modo diverso, insomma, affrontano questo tema, da 900 atto secondo di Bertolucci a Non ci faccia tra gli ulivi di Giuseppe De Santis, Il compagno Don Camillo di Luigi Comencini, e mi permetto di segnalare La serata di Palombella Rossa, un film che raccontava in modo visionario, poetico, e anche ironico, molto divertente, il cosiddetto magico 89, la fine del PC, la riflessione sul cambiamento di nome del partito, la crisi anche esistenziale della sinistra italiana, e quella sera verrà a parlare del film Nanni Moretti, per cui sarà curioso sentire, a tanti anni di distanza di Palombella Rossa e anche a meno anni ma sempre a distanza dal movimento dei girotondi e quant'altro, cosa da dire Nanni su questo tema che sicuramente gli è caro. L'ultima serata invece sarà un omaggio a un artista che a Narni è vissuto a lungo, Gastone Moschin, e proietteremo Amici miei di Mario Monacelli, nato, come tutti sanno, da un'idea di Pietro Germi, per cui vorrei anche segnalare che su 5 film, 3, Amici miei, Palombella Rossa e Il compagno Don Camillo, sono film molto divertenti, per cui penso che saranno delle serate al tempo stesso molto raffinate, ma anche all'insegna del divertimento. Bene, ci lasci tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Dunque, c'è un sito www.leviedelcinema.it, si può andare sul comune di Narni, esiste una pagina Facebook,